vogliamo sempre e man mano mantenere proprio tutto, tutela dell'ambiente, tutto quello che è il discorso dell'ecologico, però mantenere moltissimo questa cosa del sociale, inteso come inserimento del margine. Quindi il lavoratore del carcere, libera che è la criminalità organizzata, quindi tutte queste terre che sono state tolte alla mafia e sono gestite da cooperative di ragazzi, giovani. A questo proposito appunto volevamo anche chiedere, dato che siamo rimasti, ieri informandoci siamo rimaste un po', diciamo, non c'è molta conoscenza in Trentino del fatto che ci siano tutti questi territori che sono stati confiscati effettivamente alla mafia, siamo caduti proprio dalle nuvole, e il rapporto appunto, cioè questi beni, dove effettivamente sono, la storia che hanno avuto, il rapporto che avete anche voi. Con Libera? Sì. Libera è nazionale e l'organizzazione è in coordinamenti territoriali che a loro volta sono coordinati tra di loro. È una rete di associazioni, di scuole, perché Libera non è un'associazione, è proprio un insieme di associazioni. Gli ultimi due coordinamenti che sono nati sono noi, Alto Adige a novembre e Trentino a febbraio. Anche perché c'è questa difficoltà, c'è un po' questo cosa di considerare, dice, perché fare una lotta alla mafia? No. Quando alla fin fine, ma soprattutto perché fare una lotta alla mafia, non tanto a Milano perché si vede, Lombardia si sa cos'è, però perché fare una lotta, un'azione di lotta alla mafia in Trentino Alto Adige, che è esente, no? Per fenomeno. E non è tanto il vero tipo di cosa, ma è un po' un'educazione alla legalità che noi vogliamo fare, cioè far pensare le persone, far conoscere, soprattutto far conoscere questa realtà. Da una parte appunto è l'educazione, la cittadinanza, cercare la cittadinanza attiva, porsi delle problematiche, cambiare un po' questa società che per 20 anni è stata un po' addormentata. E un po' molto a far conoscere quella che è la realtà del meridione, quello che per noi è un diritto, per loro, per chi sta combattendo contro il criminale, è una lotta quotidiana. E se non si conosce, non si riesce a capire veramente che cosa comporta vivere lì e mettersi contro. Ma siete riusciti ad avere dei riscontri a livello territoriale qui? A livello territoriale, allora, il Trentino ha questi 15 beni confiscati che poi sono appartamenti. Sono appartamenti e un grande terreno fabbricabile a Riva del Garda. E fanno tutti capo a un unico procedimento che non è tanto di effettivamente di mafia o qualcosa, di associazione mafiosa, ma è usura. In provincia di Fontana non ci sono beni confiscati e quindi tu fai più, ecco, diciamo che al nord c'è più un discorso di combattere l'atteggiamento mafioso. E noi abbiamo iniziato adesso, la gente è molto interessata, è molto difficile, ma soprattutto devi riuscire a intercettare i giovani. Il 25 maggio siamo all'università e poi il 15 giugno saremo alla rete, che appunto si è associata a Libera, e faremo un incontro con l'autore. Proprio faremo questo che arriva a Tiberio Bentivoglio, che è proprio uno che gira sotto scorta, ha la scorta, è un imprenditore di Reggio Calabria e lui, solo perché ha deciso di allargare, un negozio di allargarsi e di fare qualcosa di più, è stato soggetto a tutta una serie di ricatti, insomma. Soltanto per cose di questo genere condizionano tutta la propria esistenza. Si ha già avuto attentati, ha la scorta, e quindi conoscere dal vivo queste è uno di quelli che ha dato vita al movimento No Pizzo, è il coso proprio Reggio Libera Reggio. Del resto siamo andati giù noi una 20 giorni fa proprio a Reggio Calabria per inaugurare una bottega. Perché noi iniziamo il 15 giugno una serie di avvenimenti, tutto un procedimento che ci porterà al gemellaggio con la Calabria. Anche noi abbiamo visto che cosa vuol dire, siamo andati in una pizzeria che ha il simbolo No Pizzo e aveva i carabinieri fuori. Ma quindi i terreni che poi voi, che sono stati conquistati, che poi sì. voi utilizzate, avete dei problemi, siete... Allora, diciamo che c'è la Sicilia che adesso è piuttosto avanti. Uh-huh. La Sicilia i problemi li ha avuti tempo fa. Adesso tutto sommato le cooperative che nascono non hanno delle grandi problematiche, hanno le difficoltà dovute alla burocrazia, perché dal momento in cui un bene viene sequestrato, al momento in cui viene assegnato, passano circa 10 anni, e quindi pensate a tutto cosa può essere un frutteto che è stato 10 anni in abbandono. Devi fare un lavoro per ripristinarlo, quindi le difficoltà sono grandi da quel punto di vista. Calabria, Puglia anche ce ne sono nate abbastanza, in Campania adesso diventa attivo questo caseificio, in Calabria è veramente è la regione più colpita e ancora molto molto molto difficile. Quindi voi dopo 10 anni che di abbandono del terreno dovete fare un investimento e siete aiutati da... Ma sono fondi sociali europei, no. È un progetto del Fondo Sociale Europeo, poi naturalmente c'è Libera che aiuta, non soltanto come diciamo, immagine, come coordinamento, perché adesso c'è da dire che le cooperative di Libera sono, tutte queste cooperative hanno dal punto di vista diciamo organizzativo, dal punto di vista anche marketing, tutto la Coppa dietro che dà tutto questo contributo. E sono, difatti c'è un consorzio che si chiama Mediterraneo, che è proprio appunto, in cui c'è. E dal punto di vista tecnico, dal punto tipo soprattutto vino, c'è Slow Food, che dà il suo contributo, aiuta tanto all'avviamento, ecco, di queste. Quindi voi il prodotto lo vendete tramite cooperativa, anche tramite supermercato? Libera li vende o nelle sue botteghe, perché sono le botteghe dei saperi e dei sapori, alcune botteghe che vengono gestite direttamente da Libera, e poi altro mercato che è anche quello il legame, nelle botteghe del mondo ci sono sia Libero Mondo, che è l'altra centrale di importazione, sia altro mercato, hanno dei rapporti diretti per alcuni prodotti di Libera e quindi sono nelle botteghe del mondo. Noi adesso siamo riusciti ad avere con la Concoop, perché ha il negozio ai piani, saremo presenti una volta al mese con tutti i prodotti di Libera, anche tutto quello che non si trovano nelle botteghe o nel supermercato, che così possiamo trasmettere il messaggio, possiamo parlare. Quindi ad oggi siete riusciti ad avere una rete a livello nazionale abbastanza... A livello nazionale sta funzionando bene. Adesso cerchiamo di inserirlo come prodotti qui in Alto Adige, perché vediamo che quando non riusciamo i prodotti sono graditi, sono molto interessati, la gente si informa. Per ritornare al nord, per farti dire di Libera, fino a che è stato sud c'è agricoltura, no? Quindi ci sono frutteti, ci sono i problemi adesso del nord, che vengono confiscati fabbriche, piccole cose, e quello è il nostro problema, perché sono, quindi ci sono lavoratori che vengono licenziati, che perdono il lavoro. E un discorso che è iniziato adesso, però è molto, non c'è ancora un'esperienza, di fare come è stato fatto in Argentina, che è uscita dalla crisi economica, cioè i lavoratori fanno cooperativa e gestiscono la fabbrica.